Appuntamento in sordina, oggi e domani ad Orano, in Algeria, per tornare a discutere di sicurezza e collaborazione nel Mediterraneo, con particolare riferimento al problema del traffico di clandestini. Attori, come altre volte in un passato anche recente, i cinque paesi del Maghreb, e cioè Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania, e cinque dell'Unione Europea, Italia, Francia, Germania, Spagna e Malta. La posizione più netta è senza dubbio quella dei maghrebini, che rifiutano il progetto italo-tedesco, appoggiato dalla Gran Bretagna, di allestire in Nord Africa campi di accoglienza per gli aspiranti clandestini. Netta l'opposizione anche di Francia e Spagna. Unione Europea in ordine sparso, quindi, e ben difficilmente le posizioni si modificheranno in questa occasione, ma proprio la difficoltà di un'intesa potrebbe rafforzare la tesi che solo una più stretta collaborazione e una sempre più attenta cooperazione possono contribuire in buona misura alla soluzione del problema. Collaborazione fattiva, come quella da tempo in atto tra Marocco e Spagna e che sta dando ottimi risultati, o come quella della Tunisia, i cui mezzi navali operano con successo nello Stretto di Sicilia, con unità italiane e di altre nazioni. Partendo da questa considerazione ci si chiede perché non elaborare un piano comune sia in mare che in terraferma. Altro argomento di discussione dovrebbe essere quello dei visti d'ingresso, dopo un ulteriore giro di vite attuato da molti paesi dell'Unione Europea, la quale, tra l'altro, avrebbe allo studio l'istituzione, dal 2007, di visti corredati da impronte digitali e foto numeriche, idee che su questa sponda del Mediterraneo non godono certo di popolarità. Franco Chievegatti, di Reporter Associati, per Amisnet Radio.